forza. Ma che forma? Ce l'hai fatta. Stavo usando il dipolo, stavo programma e stavo volendo usare una pinta, un po' farlo saldare, che era una volta che non l'ho usato, il precedente Lincoln. E cosa ho fatto? Poco fa per sentire una persona più lontano che non ha sentito con Lincoln, ho invertito i cavi, dell'antenna. E non mi ricordavo che quella, nell'antenna grande c'era un lineare attaccato. Come l'ho attaccato ho fatto PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA che fino alla Monza, quell'inerezzo, se si possono cambiare con facilità. Sì, è facilissimo cambiare, c'è volontà. Allora, linea, le finali non si leggono perché c'è, sono coperti da una placca, sono coperti. Devo smontare e vedere cosa sono. Probabile che c'è gli uomini, che ce l'ho questo finale. Ne ho un circosineo di finali. Dopo guardo a vedere se vanno bene. Aia. Per esempio in quello che avevo io, che mi si è buttato in qualche cassetto, sono quattro finali MOSFET, no? Sarebbe l'RM Italy KL203, che poi è identico al Midland 747, cioè nel Midland c'è l'RM Italy, proprio la scheda marcata RM Italy, e ha quattro MOSFET che loro chiamano in un modo strano, no? Per non far sapere quali ricambi mettere, però io so che esiste il ricambio giusto, non so se siano IRF, vabbè, ti direi una balla, adesso non me lo ricordo. Praticamente il valore dei finali è pari quasi al valore del linearetto, che costa 30 euro. Scusami un attimino, un secondo che porto l'antenna. Eia, fai pure. Claudio, ci sei? Ui, ui, ui. Chi c'è all'ascolta? Io. Ok. Eia, sono qua. Ok. Sì. Invece a Rosmetro, neanche a Rosmetro si è fatto niente, perché c'era collegato Rosmetro lineare, tutto collegato io. E pensavo che era partito anche il microfono, l'MC60, invece non è partito niente. Che culo. No, e manco fosse un fulmine, caspita. E i finali già si trovano, ma cos'è, a MOSFET, oppure finali classici. Io una volta avevo anche un B, come si chiama quello da 100 watt fasulli della ZG, il classico, il B150 può essere? Sì, c'erano, una volta c'erano i B150, c'erano della ZG, me li ricordo perché ce l'avevo anche io in macchina. Quello credo di averlo o buttato o regalato, non me ne ricordo, anche perché non, la radio non era chiara, aveva finali classici, no? Se volevi pompare, cioè se li volevi far dare quegli 80 watt, forse qualcosa di più, dovevi dargli i watt pieni ma saturava. Se volevi uscire bene dovevi dargli pochi watt e farlo uscire con 50 di watt, allora usciva bene. Invece il MOSFET problemi non ne ha, il MOSFET è già tutta un'altra, oh, satura anche lui, quello lì, quello che avevo io, che ho, come non averne, aveva 10 watt di ingresso, no? Se ne vedeva da 7 a 10, saturava, nonostante sia MOSFET, saturava un po'. Se non li ho provati, 5 watt già non saturava e tirava 90 watt pieni e più. Capito? E perciò io lo pilotavo in basso, cioè è inutile avere segnale buono e non aver radio, io preferisco uscire bene ma avere meno watt, se proprio lo devo usare, ma chi lo userà più? Cazzo, sì, ma già me lo ricordo, andavo nella formazione quelli lì, però dipendeva anche dal tipo della radio che ci avevi, perché a me me lo avevano registrato quello lì, un amico di Porta Torres, tanti anni fa, quando allora avevo l'FM500S in macchina, ce l'avevo io, e usavo quello lì, B150. Me l'aveva regolato tra la radio e il coso e non lo saturava più. Sì, basta trovare il giusto compromesso. Tanto poi mi da 60 watt a 80 che sia o 100, non è che le differenze sono abissali, può variare mezzo Santiago forse. La ZG no, faceva il B150, poi hanno fatto il nuovo B153 che è uguale d'aspetto ma è a MOSFET, quello non l'ho mai provato la verità. Anche perché costano sempre di più degli RMT, oggi mi sto impappinando, l'RM Italy, il 203, costava 40 euro più spedizione, però 40 euro lì già siamo a già 50 più spedizione, 10 euro in più, e poi ZG, vabbè, io sono prevenuto dai con la roba ZG. Sul finale mi è partito. Che poi ZG, diciamo, i microfoni li fa bene, le MB più 4, più 5 vanno bene, anche il microfono da palmo, l'M93 o come si chiama, va bene. Diciamo che deficita nella strumentazione, almeno quella più economica. Ci prendendo rosmetri base, no? Quelli da 30 euro, non segna le stazionarie proprio. E poi di un rosmetro accordatore da macchina, il TM999, me ne sono fumati tre ne ho fumato, uno tanti anni fa e due nel giro di 10 anni. Cioè basta dargli pochi watt e si brucia la parte accordante, e purtroppo lì, vabbè, detto tra noi, se vuoi roba buona devi pigliare Daiwa come rosmetro, HP 801, 901, siamo sui 150 euro, è solo rosmetro wattmetro, però quello è preciso, aghi incrociati, potenza AVG, potenza di picco, tutto c'ha. Guarda, io sto usando, se pensavo che era partito, c'ho della Daiwa il CN102L, da 1,8 a 150. Io avevo un MFG, ma l'ho perso, è sparito, probabilmente è stato buttato per sbaglio. Certo, non era precisissimo, era veicolare, rosmetro accordatore veicolare, però facendo i paragoni con strumentazioni varie sembrava abbastanza preciso, diciamo, no? Però buttati, 150 euro buttati, persi, sicuramente è finito nel cassonetto, peggio per me che non sto attento alla roba. E poi aspetta che è pronta, porto la roba da mangiare a mamma, dai. Ehi cazzo, va bene, dai, vai, sono qua, così mi apro questo lineretto. Eccomi qua, ma te le immagini che mi sono vestito poco fa, io ero sveglio non da presto, ma ero in pigiama fino a poco fa, mi sono vestito adesso, 10 minuti fa, una vergogna, guarda. Perché è una vergogna? Perché dico lì cazzo, anche per te ce n'è. Cioè, non dormitono, ero sveglio, ma ero con lo smartphone tutta la sera a guardare video, a guardare commenti, volevo fare una recensione di quel cavetto USB speciale che mi era arrivato, ma non me lo fare Amazon, perché sono utente nuovo, il vecchio acconto l'ho perso e come utente nuovo devo fare vari acquisti prima di poter lasciare feedback, giudizi sul prodotto. Devo fare veri acquisti, non si fidano più, no. E vabbè, tutto qui. Non è entrato nessuno oggi, no? Ma poco verso il 20 c'era coso. Stavo parlando con continuo, stavo parlando, poi si è allontanato un po', e poi mi è successo tutto il crack e fra. Sono andato a finire questo canale qua. Eia. Comunque di propagazione non c'è traccia, no? Mi pare zero totale. Vabbè, ancora siamo in inverno, la primavera non è arrivata, però poi siamo nella fase buia. Non mi ricordo il picco solare fra quanto sarà, ma mi pare che siamo proprio nel nulla, nella fase negativa. Il picco solare massimo è ogni 11 anni, no? E più alto il picco solare, più favorisce la propagazione, così dicono. Ma stasera, guarda, in 40 metri stavo tutta la sera che ascoltavo, c'era anche Vittorio, c'era, e ti dico che c'era un bel di gente, c'era, e stavano parlando, ma qua mi arrivavano, addirittura ero col bipolo, e mi arrivavano tutti a livelli di 9,5-9,10. Ah no, vabbè, 40 metri è un conto, è onda lunga, no, io parlavo della 27, è 27 MHz, bisognerà aspettare la primavera, ma poco mi sentiremo. E poi conta che rispetto a 30 anni fa ci sono meno utenti, una volta la propagazione era talmente alta, arrivava a Santiago Nove fisso la propagazione. Cioè al di fuori della città non riuscivi a sentire nessuno, sentivi decine e decine di voci una sopra l'altra, una volutu, una cosa folle, mi ricordo a quei tempi. Adesso, come siamo quattro gatti noi, anche nelle altre città, anche all'estero, no? Al di fuori dell'Italia saranno meno gli utenti. Ecco. Sai, su 45 stasera c'era gente, c'era. Qualcuno c'era che modulava, si sentiva la Calabria, la Sicilia, si sentiva quella zona, tutta quella zona lì. Ehi, ha registrato il break, adesso lo mando avanti. Sì, poi vabbè, loro usano anche potenze sconsiderate spesso, no? Sai, gli autotrasportatori a forza di B1200, quando non sono due B1200 affiancati pure, e perciò riescono ancora ad arrivare, ma gli utenti normali con 4-10 watt, poi avanti il break. Buonasera a tutti, Daniele da questa parte. Ciao Daniele, in compagnia di Marco, anche se è Mofa da Magnà, e Franco da Sorso, lo senti Franco? Io lo sento a Franco, però non so se lui sente a me, perché sono con un'antenna in condizioni precarie. E va bene, va bene. Non so se tu c'eri ieri sera poi, Marco, ma forse sei già andato via. Che adesso funziona al 90% questa radio, dai. Ieri ho chiuso a una certa ora, sempre per causa pranzo, perché io ho orari balordi, no? Io sono un pipistrello, quindi dormo di giorno e mi alzo con la sera, col calare del sole. E quindi devo, con vergogna dico che devo ancora pranzare. E sono andato via, giusto si è entrato 5 minuti e poi ho chiuso, è l'ora di mangiare mia è quella. E poi per la cena se ne parla a mezzanotte, come i pipistrelli proprio. Fra un po' mi metto a mangiare incetti anch'io. Cava, cava. Ascolta Marco, io tu che sei magari più vicino e riesci a sentirmi meglio, volevo provarlo con te, quello che attaccavo le modifiche, come girava questo apparecchio. Eia, prova, dai, già sono qua. Oh Franco, lo senti Daniele? Sì, qua lo sento un po' meglio, però ogni tanto si abbassa molto il radio. Comunque buonasera Daniele, ecco la sosso. Cava. Guarda un po' come sta girando questo giocattolo. Allora, si sente un eco tipo Colt più o meno, no? La modulazione rimane buona, l'eco tipo Colt, sempre con la ripetizione un po' funziona, funziona. Adesso non, comunque non ti rovina la modulazione perché è abbastanza ritardato rispetto alla parola. Franco, come lo interpreti tu? Ma anche a me sembra un coso, sembra da qua, da come l'accetto. Sembra che ci abbia il coso dell'elicottero, però non è che l'ascolto benissimo io, ma io l'ascolto molto basso, basso, basso, basso. Come ti ho detto poco fa, a volte non riesco neanche a capire le parole. Ehi Marco, questo è un Colt. No, volevo sapere se, guarda un po', posso ancora? No. Guarda adesso, così ho aumentato la radio, così ho diminuito un po' l'eco, guarda un po' cosa dice, sei troppo forte, è troppo veloce, com'è? No, allora la modulazione tua non la sovrasta, è di fondo, la tua modulazione è buona qua, io la sento bene. Diciamo che la voce della ripetizione non è fedele quanto la modulazione, ma quello l'ho sentito un po' in tutti gli echo calls, è un po' più distorta, l'eco più distorto della voce naturale, capito? Mentre la vera modulazione, a parte l'eco, è buona. Però sta girando bene, dai, è comprensibile, non è che si accavalla, dai, una cosa, una con l'altra. No, la tua modulazione è comprensibilissima. Naturalmente poi, quello è solo il mio giudizio personale, a me non piacciono gli echi Colt né nessun echo, infatti in certi baracchini c'era pure, ma non lo usavo perché mi piace uscire normale, mi è normale, nudo, crudo e non dico l'altro. Ciao Daniele. Cavagala. Va bene. Dai, riprendete, io sono qua in ascolto, dai, già arrivo subito. Offra. Ehi, cazzo. Ehi, vabbè. Se a chi piace e a chi no. Ecco, e purtroppo dobbiamo, a chi piace tenerselo e usarlo, dobbiamo fare al suo gioco. Comunque quello di Daniele per fortuna non gli sovrasta la modulazione, invece certi che Colt messi a manetta quasi coprono la modulazione originale. Mi ha ricordato quel programma nudi e crudi, no? Quello che ti mollano nudo in mezzo all'Amazzonia, tu devi trovarti da mangiare, da bere. Io quel programma lo chiamavo, siccome sono nudi, nudi, crudi e scappellati. Per carità, lei ci credi che a me non piace nessuno, ma quando mai devono mandare questa gente nuda, con freddo che fa, piove, tutto quello che fa, e loro sono nudi, si ammalano lì, ma lo vedi come rientrano a casa? Ho visto, a parte che spesso le mandano in zone tropicali dove c'è un'umidità allucinante, un caldo boia, dice, tutti l'hanno detto, quasi tutte le puntate, dice un caldo soffocante, e poi di notte c'è freddo, tipico delle zone tipo tropicali o roba del genere. Poi si pongono con le spine, si bevono l'acqua, gli viene la dissenteria, si mangiano porcherie, serpenti, vermi, quello che trovano. No, già è roba che posso fare io. Ui. Io non so accendere un fuoco, manco col fiammifero, con l'accendino, figurati se lo so accendere, cioè, col legnetto, quelle cose che c'erano loro. Ui. Ehi, chiappa, figurati. Ci sono, vabbè, che arrivano gente pompata, già arrivano, che dicono, io dice qua me la cavo al 100% perché ho fatto questo, io ero all'esercito, ho fatto di tutto, arrivano là e poi sono gli altri che devono aiutare a lui. Poi perdono anche chili, perdono chi ha perso 5 chili, chi 8 chili, anche chi ha perso 10 chili di peso, anche non aveva nulla da mangiare lì. Però sai cos'è? Una cosa è andare tipo che ne so, con un minimo di attrezzatura come può essere Bear Grylls, no? Che c'ha corde, acciarino, coltello. Arrivano, mi pare gli permettono di portare un oggetto che può essere un pentolino, forse un coltello, può essere, adesso non mi viene, cioè lì sei nudo, non c'hai scarpe adatte a camminare, sei nudo, sì, caspita, e come si fa lì? Ti fanno a pezzi gli insetti lì, ti pungono, uno era tutto mitragliato di punture di zanzara, ma non zanzare nostre, no, zanzare tropicali, ci fanno vedere un bubone così, mamma mia, per carità. Avevo visto io, per carità, no, Cianzini, neanche morto Cianzini. Però, vedi, almeno lì è un test di sopravvivenza, no? Perché arrivano dei tipi, come hai detto tu, che ex militari, ex prepper, no? Quelli convinti di sopravvivere in una situazione, poi la fame è brutta, la sete pure, il caldo lo stesso soffocante, brutto, e certi mollano, certi proprio mollano, non ce la fanno. E vabbè, invece se uno ha un minimo di attrezzatura, utensili, vestiario adatto anche, perché caspita, se piove in quelle zone tropicali, ogni tanto piove, ma piove in modo torrenziale, quelli si riparano con le foglie, capito? Quindi possono pigliare infreddature, o se no il contrario, colpi di caldo di giorno, è ostico quello. Però vedi, quello lo guardavo come programma. Invece a me non piaceva quel programma di L'isola di Adamo ed Eva, dove ti mandano due nudi, un ragazzo e una ragazza nudi, e dovrebbe scoccare la scintilla. Io ti faccio il paragone, se tu pigli due cani, un maschio e una femmina, li metti assieme, cosa fanno? Trombano. Se secondo loro l'uomo funziona così, non funziona così, la scintilla può anche non scoccare. Se non ti innamori davvero, vabbè, una cosa è il sesso e una cosa è l'amore, poi ricordati. E in un primo periodo lo presentava Vladimir Luxuria, quell'altro mio. Ehi, Marco, devo aspettarmi un po', che sto andando quel finale, cambiarlo io. Penso che una volta cambiato vada ritirato un po' il bias o roba del genere. Non so cosa sia nemmeno, me l'aveva detto Antonello. Io ne approfitto per andare a mangiare. Ciao Fra, se ci sentiamo dopo, bene, se no ritieniti salutato, ok? Io ci sono io, non ho problema. Tanto tra un po' dovrebbe entrare anche Claudio. Eia, nel caso dopo, ok, ciao, buona serata. Ah, piuttosto, Daniele, sei ancora in ruota? Attenzione, Daniele. Vai a mangiare, ci devi andare a mangiare, vai. Mimi? A pizzo, riscido, mi. Un pizzo, questo è buono, che hai in capo. Ha tipo yogurt, io mi sono rientrato adesso. Ma lo so, Franco, davvero. Va bene, va bene. Adesso mi avevo assistata pure, intanto saranno molto, devo dire, uscire quando ho preso le due cose. Va bene, vai a mangiare, vai. Vabbè, Franco sta cambiando un finale, poi rientra. Si è avuto un piccolo incidente all'inerezzo, ciao, a dopo. E già lo so io cosa ho avuto fatto, l'ho sentito, eravamo al telefono, facevo le prove in campagna. Vabbè, ci sentiamo dopo, dai. Sono stanco morto. Lì c'era anche Daniele, l'ho sentito poco fa, lo dice Vittorio. Daniele, ci sei? Dani. Ui, ancora a scaldare la roba, aspetta. Vabbè, fra, finito, Sì, ma dove ne aveva quel lineamento di finale? Vabbè, finale per finale, sempre. Tu lo sai qual è quello che hai bruciato, il prefinale o il finale? Vanno misurati. Sì, l'hai giusto. Bravissimo. Non è bianco, invece è buono. E quindi? Qual è, quello di sotto o quello di sopra? O a fianco ce li avrebbe? No, a fianco. A fianco. Sono tutte e due la stessa sigla. Sì, però c'è una voltaggio diverso. Di solito c'è prima il prefinale e poi il finale. Quale ti ha bruciato a te, il primo o il secondo? Dalla parte del PL, quale ti ha bruciato a te, il primo o il secondo? Vabbè, PL... sul PL di destra me l'ha bruciato. E quindi al secondo? Quindi ti ha bruciato praticamente dove c'è, dalla parte del finale dell'ingresso dell'antenna o del trasmettitore? Ma sai che guardo la carcassa. Guarda cosa c'è scritto, se c'è scritto TX o RX, a destra o a sinistra. Che passò? RX. RX, e quindi ti ha bruciato quella del ricevitore. Ecco. Sì, solo lui è danneggiato, non c'è altro danno. Vabbè, non è un problema. E non mi aiuti. Ah, Tonello, chiedi, magari ce ne ha di ricambio qualcosa. Sono abbastanza commerciali quei finali, già si trova. Capo. Aiuto, il corpo mi ha riscaldato anche dai dovetta con il PL. Anche i figli, tutti i due figli l'hanno fatto dall'altra, tutti i due PL mi hanno armato, da una parte solo, ma l'avevo bruciato in finale, me l'ha attaccato. E glielo dico, intanto già entra da poco il ref, sei di diretto, figurati, col cavretto attaccato, ti ha bruciato più che il lineare e l'osmetro, l'antenna l'avevi già attaccata, vabbè. Cose che succedono, distrazioni, dai, non è niente. Sì, il prefinale ti ha bruciato. Capo, sono contento lo stesso che l'abbia bruciato. Sì, ma infatti alla fine, meglio visto che lo sia 80, no? Cosa di più? Tranquillo. Guarda, non lo conveniente di bambino. È un conveniente di bilanario. Ma, 40 euro di lineare. Contro tutto il lavoro che c'era da fare al C80, meglio così, flaccidi. Va bene, va bene. Ora sono 7.25, dai, io vi saluto. Sono tutto il giorno in campagna, oh Marco. Domani arriva materiale, c'è da fare l'ingresso del cancello, e quindi arriva là. E cacchi asciutto domani mattina alle 8. Vabbè, dai, io vi saluto, vi abbraccio, buon proseguo se proseguite, buon fine serata, buon tutto e ci sentiamo alle prossime, dai. Riprendi Marco se vuoi riprendere, se no vi saluto, ciao. Ehi, va bene, ci sentiamo, ciao Cro, alle prossime. Io mi chiudo questo tre, lo metto nel bloccato, lo lascio fare. Ehi, staccalo, disaldalo. Dov'è Antonello, te lo fai procurare e poi te lo risaldi, va a cazzata. Cosa c'ha? Quella vitina che lo mantiene, quella piastra. Sì, due viti sono che lo mantiene la piastra. Due, tre sono, va. Sì, è una cazzata fa. Non c'è problema, portate trovare. Magari c'è il corrispondente Fusaro, portatela presso. Capito? Perché se c'è il corrispondente, le metti il corrispondente, vabbè, lo stesso, poi è una cazzata. Magari invece di darne 80, ne darne 70, ma di solito vanno bene i corrispondenti. Comunque, senti Antonello cosa ti dice, per così esattamente ti dice cosa comprare, magari verrà pure detto, non sempre obiettivo di cambio. Ciao Fra, mi faccio la doccia, che so capizzi, una mattina torna Risetti, in piedi, alle 8 voi sei campagna, che arriva la Bettumiera. Ciao, ciao, ciao, buona serata a tutti. Ehi, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Marconi, ciao. Scusate che sto mangiando qua, dai, ciao. Ciao.